verso 10. CQ canale 10, c'è qualcuno che l'ascolta? Sì, avanti, avanti fischio, chi è? Beh, non risponde. Va bene, dai, devo andare a comprare Non è che io le sopporto molto, mi scaldano troppo. No, questi qua no, quelli da Macaggio Favillo, Favillo, vabbè, dovrei da comprare il paziente. Ce lo compro io. No, ce l'ho un singolo, anzi, capito? Solo che in due non ci stiamo. E allora prendiamo quello... quello matrimoniale. Ah, vuoi contro di dar a bocca? Sì, no. Che affa. E cosa fai? Tu, ma al mare è andato, sì. No, siamo arrivati a casa. Ah, ho capito. Sto giorno a casa. E caso non ne avevate? No, che siamo usciti, siamo andati dalla cugina, poi sono passato un attimo dal Costantino, poi dobbiamo dire una cosa, e via. Aperto la tassera? Sì che era aperto. Ci sono da una domenica. Ah, chi sono? Parenti, quello... come si chiama? Chi tu... Pasqualone si chiama... Sono parenti, so. Ah, buh. Non so. Caffa, ma i parenti, buh. Hai compreso giocare? Sì, sì, lo conosco. Caffa, ah, io c'ho il risate. Che ci posso fare cosa, ci posso... anche tu sguardo. No. Cazzo, diavolo. Ok. E conosci tu? Luca si chiama. Hai detto di sono felice di però se sei tu e dimmi quello lì io non so quattrione ti faccio un pagliaccio cazzo cammina su porta la punta pagliaccio bravo mi. Ah Luca vieni a uso cosa? E dove l'hai trovato? Alberto Carboni gliel'ha fatto bastardo Luca Pino. Già usai care mandamelo aspetta mi sa che lo scarico cara. Aspetta che lo scarico direttamente di cazzo da più buccio mi sta scaricando mandato la fotografia lui me la sta comandando me sì. Che tu sguatterone intanto non può usare i telefonini le computer per un anno e cosa ha combinato? Ha pilato a botte di sbirri la polizia municipale ha detto Bobo gli so un bel ne ha detto un bel ah, già me lo ricordo. Già me lo ricordo già. Uia, mi tocca il signore, per carità. Per carità. E gli hanno imposto questa cosa qua. Ma non so cosa sono buone fame. Certo, ma sono ciò che sono buoni, fai forza. Cioè, fai un video che stai dicendo cosa alla polizia. Lui ha sbagliato su una cosa, ha sbagliato. Chi sa è la polizia? Ne c'è nata una cosa, un meraviglio che era venuto rompendo le balle. Era facendo tutto, rompendo le scatole. E tu sei posto in mezzo senza venire dito, capito? No. Allora, praticamente questo di colore stava occupando un appartamento. Sono intervenuti la polizia e lui li ha attaccati dicendo che praticamente dovevano lasciarlo occupare e poi lo stavano maltrattando, insomma erano in tanti stati poliziotti, così una cosa del genere. Che macco, se una persona sana non gli avrebbe detto certe cose. Facciamo il qua, non va bene, sto focando. Secondo me è caduto. Sì, ma giù c'è una gabbè sui occhi. Lo so il perché. E tu sei posto in mezzo in una cosa che non gli interessava. Infatti. E fai vedere la polizia oltretutto. Ma c'ho cose più peggiori di quelle. Ma per fine di buono la faccio in curva e si pone in me. Tu dici, Ma quella burlata mi consiglio quella che la rompendi le balle. E chi? Si sente sotto un altro. Infatti cosa l'ha fatto un bastardo? Ha fatto una cosa per pigliarla in giro. Vabbè, comunque la polizia non si offende altro. Lo so, purtroppo. Se non va a capo. Capo, se non due capo è lui. Ma dai. Capa. Purtroppo. Cosa vuoi fa? Sono proprio negativa, ma al massimo proprio. Ci dovrebbe dare una calmata. Perché poi lui accumula, poi si va tutti dentro. Già lo so, già. La cadia ha un circolo, era. A me mi chiama. l'ho conosciuto, vabbè, dopo tanti anni. Ed era tranquillo quando questa ragazza, una bella ragazza anche per la sua ex. E poi si è fatto di mezza marmellata. Ma che per carità. Diciamo che vabbè, non è che sia cura mai, però a qualcuno le sa di bene, ma che parate si la ringa in culo, compreso eh. Devo dire qua, purtroppo, un casino. Capa, perché gli arrugiai dalla famiglia che proviene, cioè, hanno criticato, soprattutto la madre ha criticato il genero, ma il migliore era peggio. Non lo so. Ognuno faccia quello che vuole, a me, poco me ne può fregare. Mamma mia, che stanchissimo. Siamo arrivati al mare alle 8:15. Siamo andati via alle... le 6:30. Cappa. Cappa, non vedo un buon odore, ma avete fatto. Vabbè. Poi c'è questi due amici di socio. Ci troviamo bene, la verità. Ci facciamo compagnia, due chiacchiere, una birretta, un bagnetto, una passeggiata. Giappa, a parte il RD. Bene, sai, sui sintomi ci sono fatti, no? Il ritmo con il sapaccione. Alle due a tempo, che è? Ieri siamo stati bene comunque di là. Sono intervenuti fino agli anticorpi, a poco sono durati. C'era quella, se non mi ricordo il nome, quella donna che stava cantando due canzoni. Così è volata la serata, ma ero driccia, ma avevo i pantaloni, quelli jeans, pantaloncino, ero tutto lo sudato. Vabbè, c'è andato a casa e ti ha fatto la doccia. No, si va giù fatta prima di sci e i pantaloni erano un po' sudati, anzi no. E cazzo, sembra una doccia che avevo i pantaloni sudati. Vabbè, dopo che hai finito, te sei andato a casa e ti ha fatto la doccia. C'è un burrito, cazzo ci avevo qua. Scusa, se tu mi hai detto che è sudato, non eri pulito. E i pantaloni, Antu, sono un po' sotto le cosce, mica... Ma, cazzo, ma giù la doccia, mica puzzavo. Da giù è tutto sul fisico. E cazzo, già la giù fatica sta la doccia, la pelle del... Cioè, ho capito, vabbè, d'estate mai ti avevo un po' di più. No, ma ce l'ho pulito, Antu, e non mi capo 10 secondi sto alla doccia, e mi lavo beh. Che io no. E poi vabbè uso creme, no, non è che deodoranti, tutto. E io le uso. Io le sono messo in creme e c'è che ballacche. Capa, no, io deodorante sfrutto. No, io no, a me mi piace lavarmi, no? Vedi, che se non so come ti fate, pinchinosi, ma mamma mia. Beh, però mi piace la mamma, usa me. Ciao raga. E poi c'ha, quando si fa la doccia ogni giorno, a voglia, anche due. Su questi giorni, su questi giorni che fa questo caldo brutto, già va bene, va bene. Adesso c'è un caldo di là, c'erano 30 gradi c'erano, mamma mia. Infatti a Maria gli ho detto, non sapevi cosa fare, a prendere questi biglietti. Sabe, comunque siamo andati a mangiarci un panino. Anzi, abbiamo preso il panino in via Napoli, siamo seduti in un bar, siamo sbarati il panino, lì si è fatto una pizzetta e poi ci siamo presi due birrette e poi siamo andati di là. Però di là non c'era niente in vendita, né acqua, né birra, nulla. Non c'era nemmeno una bancarella. No, Roberto, se ti andate. Sì. Conosciuti. Ehi, ehi. E il baracchino che stava acceso, non c'era nessuno, manco un'anima. Nessuno, buh. Io ero fuori, ero. Ero fratello di Gozo, di... di Silvia Roma, di Renato. Degli Imperi. Sì, sono fratello. Li conosco bene, l'ho servito per tanti anni. A voi è andato granchigina. Un fogaretto sta sulle sue, un tipo un po' che sta sulle sue, anche mi appigliva. Ma infatti il panino di ieri non mi è piaciuto più di tanto, sono sincero. Cappa. No, poi via Tempio, se scendi in via Tempio c'è, ci sono delle pizzerie lì, ce n'è anche una bella, ce n'è anche una che si mangia bene pure. Via Tempio dopo. Angolo e giù, sono insegna Rosa, poi se vai via 4 novembre c'è la perla, la perla rosa, cioè. E già ce ne sono pizzerie lì. Ma mangiarla dentro? Anche. Ah, ma te la puoi portare anche via? Sì. E io... No, io volevo mangiare questo panino, che ho da molto senza mangiare, ma non... non mi è piaciuto. Ho detto già travagliava. Ho preso un panino, una pizza, 5 euro e rotto. Ah, non è caro. No, assolutamente no. Ma che te l'ha fatto? Vedo te l'ha fatto. Che cagamella me l'ha fatto. Veramente cagamella. Cagamella. Oh, cappa. Non lo conosci a Edo. A chi? A Roberto. Ehi. Sì. E non c'era lui. Facevo di quei ragazzi, me l'ha fatto, non lo so, altro, ero fuori. Niente, Cosa è lui? Cosa? Cosa c'è lui? Cosa c'è? Stavano un papperissimo a sprint. Il tuo tipo un cicciottello è salito sopra una barca, mi pare. Ha perso l'equilibrio e si è fatto il rammoglio. Andiamo, che? No, altro. Allora, sono passato a usare una cosa. Ma zitto. Venari, fai morigozzi. Avevo su Venari. Ti ricordi che ha fatto il biglietto alla lotteria? Ma dito il suo Venari fa morire l'estrazione, è nuda. Sono passato e ho detto, ma insomma, ma l'estrazione. Ho detto, non l'avevo fatto, c'è questo l'altro vendino, non ce l'avevo a fare. Voglio vedere. Ma quei biglietti 3 euro l'uno? Ehi! Se avevamo la muccia caradiere, sì, no? No, no, ha promesso sia lui che la madre che sabato vedono questa cosa. Ma... vabbè. A me pare un po' gutrani, è la verità. Come si dice, fidasse meglio, fidasse meglio. Ma non ero i 3 euro, e dico la verità. Se tu mi dici, l'avemmo fatto, ma non abbiamo la possibilità di farlo perché abbiamo dato l'idea a pagare la beneficenza. Non me ne ha fatti nulla, però non mi lasciare così. Capito? Cioè, di dimmi che cosa. Ma la sanazione si fa subito, no? Da voi di gatto. La fai subito all'istante. Lo so. Ah, voglio vedere chi tu vai andare. Ma, per carità, è brutto. Quando si può si fa, va sempre, e poi lui le fa spesso, capito? Ma niente, non è che c'è chi va di Napa, va, insomma, da prendersi il biglietto, un po' una multa, e lui va di spesso questa cosa. Però Marco, dimmi, cioè, dimmi che cosa, Bruno. Ehi, uia, carità. Guarda che con i mugini, comunque. Ma la verità, la pipina non si sta male, non è che cosa. Già è anche capace lui, però va negli che gossip. Ehi. Ma è un raggio compreso, beh, ma è tu, non è... Come ti dice? C'è il cognome della madre lui. E non è manco la mamma, chissà. Come è la mamma? No, già ci assomigliano. Era la mamma. Allora cosa? Che era la mamma? Non guida. Ah, se ne piglia da cura che sta femmina. Esatto. Eppure Mariano Brezzisi. Sì, vabbè, ma la parte del padre. La somiglianza la prende comunque, capito? Se quando mate si guignomo, significa che va... un uomo di rubato è la sorella del padre, capito? Ah, ho capito, ma non è che rubato magari gli è morto, boh? Ma non lo so, penso, non lo so, sincero, non lo so. Poi parla marito, parla di Dico. Ah, secondo te non è la mamma quella signora? Poi questo maledetto. Vabbè, la niente dice. Ma c'è già Marina. Cappa. Siamo in mano un po' gustrane, ma... da comunque va i pantaloni che mi dretto me. Cosa tu? È lei che ha i pantaloni. Pantaloni? Nel senso che comanda Edda. Beh, forza Edda, mica Edda. Cappa, lo zio c'ha Zinchivi, cioè quello che ci dà da fare e tutto. Però alla fin fine è dare, cioè, comandami, neanche Costantino. Costantino, vabbè, lavora, però è proprio Edda che sei comanda. Lo zio. Lo zio mi ha i dazi pieni di birra. Cosa fate? Vieni a ritirare i dazi pieni di birra. Già l'ha giusto cosa, Yatari? Bah, ha detto pure la Edda. Aspetta, ascolta il messaggio. Ciao, buonanotte, non ci sentiamo.